Un consiglio per le coppie fidanzate e sposate: prendete l'impegno di pregare insieme, prendete l'impegno di farlo giornalmente, anche se non avete la possibilità di vedervi sempre, mandatevi dei messaggi di preghiera, condividetevi dei versetti, parlate di quello che Dio fa nella vostra vita, perché vi aiuta tantissimo. 2. Sii prima completo in Dio. Dio è colui che ti completa. Dio, lo ripeto, Dio è colui che ti completa. Ti ha creato, ti ha amato al di sopra di ogni altra cosa. E ha amato ognuno di noi. Dio è quello giusto per me. Dio è quello giusto per te. Tuo marito, tua moglie, il tuo fidanzato, la tua fidanzata, i tuoi amici vengono al secondo posto. Al primo posto deve sempre venire Dio. Non esiste un lato della mela che ti completa. Cioè, non esiste un lato della mela che ti completa. L'unica persona che ti può completare è Dio. Sei veramente completo in Dio. Una relazione sottosopra è una relazione che ti spinge a cercare di più Dio. 3. Le relazioni sottosopra sono quelle che aspettano. Tutte le nostre decisioni, tutte le verità più grandi per la nostra vita devono essere basate sulla parola di Dio. Tutto quello che deve influenzare la nostra vita, io scelgo che tutto quello che influenza la mia vita è la parola di Dio. Perché la parola di Dio? È perché Dio non può nient'altro che amarmi, non può nient'altro che dare il meglio per la mia vita. E nella parola di Dio c'è scritto questo: fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Fornicare vuol dire avere rapporti prima del matrimonio, ma non solo. Vuol dire avvicinarsi troppo ad una ragazza prima del matrimonio. Vuol dire provare quel sentimento in più per quella ragazza o per quel ragazzo prima del matrimonio. Io e Michael abbiamo scelto di conservare quella parte della nostra relazione al matrimonio, perché sapevamo che era un regalo predisposto per il matrimonio. Sapevamo che l'esserci astenuti per 5 anni del nostro fidanzamento avrebbe portato delle conseguenze di benedizioni per la nostra vita. Che è così. Cioè, è così. Noi siamo sposati da quasi 4 anni e siamo grandemente benedetti dal fatto che Dio ha guidato la nostra vita e dalle scelte che abbiamo preso nel nostro fidanzamento. Una volta ho letto che quando hai rapporti sessuali con qualcuno, questa cosa ti lega. È come se avessimo un filo rosso collegato alle nostre vite con quello dell'altra persona. Ed è un legame che rimane a vita. È un legame che non puoi togliere, rimane a vita. E io sono contenta che il mio legame è con mio marito ed è l'unica persona con cui ho questo legame. Perché ho capito che quando Dio dice astenetevi è per il nostro bene. E se anche fino ad ora tu hai vissuto rapporti che hanno avuto dei legami con altre persone, oggi puoi scegliere di mettere un punto, oggi puoi scegliere di cambiare. Oggi puoi scegliere di far sì che da ora in poi l'unico filo che tu vuoi avere è con tuo marito. Ieri leggevo un articolo di John Piper, che è un famoso predicatore, in cui c'è scritto: non cercare soddisfazione sessuale toccando o facendoti toccare da un'altra persona, anche se ti fermi poco prima del rapporto sessuale. Il tocco intimo fa parte della preparazione per l'atto sessuale. Appartiene al pacchetto detto del matrimonio. Il corpo dell'altro diventa uno strumento per soddisfare un'eccitazione personale. Dio non ci ha creato in modo che potessimo far diventare questo momento qualcosa di semplicemente umano, ma un'espressione spirituale d'amore, vista nel matrimonio. Se Dio ha detto, questa è una parte che va vista nel matrimonio, noi dobbiamo fidarci di quello che Dio ci dice e dobbiamo essere anche consapevoli che questo porta delle conseguenze nella nostra vita. Aspettare ti porta a capire l'importanza di quello che vai a vivere nel matrimonio e di quanto è importante che tu lo viva nel matrimonio. Noi andiamo contro cultura quando i nostri amici ci dicono che sono andati a letto con 4, 5, 10, 15 persone e tu gli dici io sto aspettando e scelgo di aspettare perché so che è una benedizione per me. Andare contro cultura è quando i tuoi colleghi ti prendono in giro perché l'unica persona con cui tu hai avuto rapporto è tuo marito. E tu sei convinta di quello che hai fatto, perché sai che è il meglio per te. Andare contro cultura è sapere che magari, stando troppo tempo con la mia fidanzata, mi porta ad andare oltre. E questo non mi fa bene, e magari è meglio se mi distacco. Non è facile. Non è facile aspettare. Non è facile scegliere di aspettare. Ma porta delle benedizioni, ci dà così tante benedizioni che sono il meglio per noi. Sempre Piper dice, la nostra passione consumante deve essere glorificare Dio con i nostri corpi, essendo liberi da qualsiasi dipendenza, se non da quella da Dio. Amare vuol dire scegliere. E scegliere ogni giorno di amare Dio per primo. Anche nel tuo fidanzamento. Amare vuol dire sapere che il meglio per il tuo fidanzato è che aspettate il matrimonio. Amare vuol dire sapere che il meglio per la tua fidanzata è che aspettate il matrimonio. Quando ero piccola mi hanno regalato un anello e su questo anello c'era scritto True Love Waits, significa il vero amore aspetta. E io, era un patto, è una cosa che si usa in America, un patto di purezza. È un anello che prova il fatto che tu scegli di rimanere pura fino al matrimonio. E per me quello è stato un patto di purezza che io ho fatto con Dio. Di dire, Dio, ok, io aspetto il matrimonio perché so che questo è il meglio per me. Scegli di fare un patto con Dio, scegli di fare un patto di purezza con Dio. Perché questo porterà dei benefici nella tua vita. Ma devi scegliere, non puoi rimanere fermo. Devi scegliere. Andare contro cultura vuol dire sposarsi. Sì, perché ormai il matrimonio è fuori moda. Molti al lavoro mi dicono, ma perché ti sei sposata così giovane? Chi te l'ha fatto fare? Sposarsi è fuori moda. E i divorzi hanno un picco altissimo, perché ormai per le persone è facile. Non mi trovo più bene, basta. Divorzio. Ma Dio dice tutt'altro. La Bibbia inizia, parlano di matrimonio. E finisce, parlano di matrimonio. Ci avevate mai pensato? Il matrimonio è una norma biblica. Non è una norma che noi ci siamo inventati, non è qualcosa che gli uomini hanno stabilito, ma è una norma che proviene da Dio. Il matrimonio è basato sulla scelta di un uomo e una donna che scelgono di vivere il resto della loro vita insieme. Genesi 2 dice, poi Dio, il Signore, disse, non è bene che l'uomo sia solo, io gli darò un aiuto che sia adatto a lui. Allora Dio, il Signore, fece cadere un profondo suono sull'uomo, che si addormentò. Prese una delle costole di lui e racchiuse la carne al posto di essa. Dio, il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse, questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Ella sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. L'uomo lascerà suo padre e sua madre. Guardate com'è chiaro qua Dio. Suo padre e sua madre. Non suo papà e suo papà, non sua mamma e sua mamma. Suo padre e sua madre. E si unirà a sua moglie. E allora diventeranno una stessa carne. Allora diventeranno una stessa carne. Il matrimonio è un riflesso di Gesù e la sua Chiesa. La definizione di matrimonio non è determinata dalle opinioni pubbliche, ma è determinata da Dio nel giardino e poi da Gesù con la sua Chiesa. Non ci sono matrimoni tra uomo, donna e donna. Dio ha creato il matrimonio per l'uomo e la donna. Non ci sono mezze misure, uomo e donna. Il matrimonio non serve per renderci felici, ma serve per renderci santi. E sinceramente, io credo che noi siamo troppo vincolati da quelle che sono le convinzioni che il mondo ci sta portando a vivere. Molto spesso siamo troppo attenti ai pensieri che ci vengono inculcati, da tutto quello che c'è attorno. È diventato normale per noi vedere coppie che hanno rapporti prima del matrimonio. È diventata consuetudine per noi vedere persone che divorziano. È diventata normalità, ma noi siamo sotto sopra e dobbiamo seguire quella che è la normalità di Dio. In Filippesi 4:8 c'è scritto: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Qua Paolo è chiaro, i nostri pensieri devono essere influenzati dalle cose vere, dalle cose amabili, dalle cose giuste che provengono da Dio. I nostri pensieri, il nostro modo di vivere, i nostri caratteri devono essere basati su quella che è la parola di Dio e su quelle che sono le cose che provengono dalla parola di Dio. Come stai facendo contaminare i tuoi pensieri? Cosa sta contaminando i tuoi pensieri? Stai facendo sì che i tuoi pensieri siano pensieri veri, siano pensieri onorevoli, siano pensieri giusti, tanto da portar sì che la tua vita sia influenzata dall'amore di Dio? Oppure stai facendo sì che tutto quello che è attorno influenza la tua vita? 2 settimane fa mi sono svegliata con questo versetto in mente e avevo una burrasca nel mio cervello. Avevo tante cose, tante preoccupazioni e Dio mi ha detto: tu devi pensare alle cose vere, tu devi pensare alle cose onorevoli, tu devi pensare alle cose giuste, a quelle che sono di buona fama. E quando noi viviamo la nostra vita dobbiamo scegliere. Io ho scelto, quando ero fidanzata, di rimanere pura con Michael. Noi abbiamo scelto, prima per le nostre vite stesse, singolarmente, di voler aspettare il matrimonio. È una scelta che tu sia single, che tu sia fidanzato, che tu sia sposato, che tu devi prendere, di scegliere di vivere purezza, di scegliere di vivere radicalità da questo punto di vista. E pensavo anche al fatto che molto spesso, per tanto tempo, la mia mente è stata presa dalle scemitudini che Gossip Girl, che Grey's Anatomy, che Beautiful hanno portato nella mia mente. Sull'amore idilliaco, sull'amore favoloso, sull'amore facile. Ma non è così. Non è così. ogni singolo aspetto della nostra vita deve essere basato sulla parola di Dio. Lo ripeto, lo ripeterò all'infinito. Qualsiasi minima scelta tu stia prendendo, che sia nell'ambito sessuale, che sia nell'ambito lavorativo, che sia nell'ambito di qualsiasi cosa, deve essere basata sulla parola di Dio. E io credo che Dio oggi ci voglia portare a fare una scelta. Ci voglia portare a dichiarare e a fare un patto con Lui. Una scelta porta dei benefici. E una scelta implica uno sforzo. Quando tu scegli che maglia metterti, è una decisione fondamentale. E tu oggi puoi scegliere se far sì che la tua vita sia basata sulla normalità di questo mondo o sia basata sull'essere sottosopra, sull'andare contro cultura. E Dio ti sta spingendo a questo, perché noi siamo upside down, non possiamo rimanere uguali, non possiamo rimanere fermi perché ci piace, perché è comodo, ma Dio ci sta chiamando a scegliere. E proprio per questo vi invito ora ad alzarvi tutti in piedi. E a venire avanti, liberamente. Non è un appello, ma semplicemente prendiamoci tempo per fare dei patti con Dio. Prendiamoci tempo per dichiarare a Dio che è Lui che ci completa, che è Lui la parte più importante della nostra vita, che vogliamo vivere per Lui, che vogliamo vivere per il Suo amore pieno nella nostra vita. Prendiamoci un tempo in cui adoriamo anche senza musica, Dio liberamente, perché questo porta a cambiamento. È nella cameretta, è nell'intimità con Dio che tu puoi cambiare. Quindi fai una scelta oggi.